La bella estate. Racconti dell'Italia in vacanza. Di Fabrizio Intonti e Tommaso Labranca. Vi avviso subito, oggi il tema non sarà molto diverso da quello di ieri. Ieri abbiamo parlato di alieni, di UFO. Bene, oggi parleremo di abiti estivi. E spesso chi indossa gli abiti estivi appare veramente come un alieno. Non perché sia diverso dagli altri, anzi di solito sono tutti vestiti in maniera identica. Ma sono le stranezze vestitive. E un'altra cosa di cui voglio dirvi subito il mio pensiero: non parliamo soltanto degli abiti di ieri, va bene parlare dei mutandoni ascellari di lana, va bene parlare dei pantaloni a zampa, tutta quella paccottiglia degli anni 70, dobbiamo parlare soprattutto di oggi, di come si vestono oggi d'estate le persone. E intanto, per tener fede a quello che ho appena detto, sentiamo invece una testimonianza che arriva dallo ieri. Sognare di avere un motoscafo che corre sul mare e in tasca i pantaloni, un po' di milioni da spendere in gelati, patatine, popcorn e noccioline, qualche fico. Non so se Pippo Franco sia peggio come cantante, come comico o come opinionista politico. Vabbè, diciamo che si mantiene sullo stesso livello, basso, in tutti e tre i campi. Però mi serviva questa canzone perché il titolo della puntata di oggi è proprio Che Fico. Orrenda espressione finto giovanilistica, poi per di più con la C, alla romana, qui a Milano diciamo con la G. E non so, in qualche altra zona diranno addirittura senza lettere, fio, non lo so. E quindi oggi dobbiamo parlare appunto di questi personaggi che d'estate dimenticano ogni regola di eleganza e di buon gusto. 800 24 00 24 per entrare in contatto con la bella estate, raccontarmi come vi vestite, come si vestono i vostri amici, come si vestono i vostri parenti, va bene dai, anche come si vestivano. In fondo anch'io sono un uomo del passato, sono rimasto fermo a 20 anni fa, sono rimasto fermo ad Adamant. Il mio sogno sarebbe stato nell'84, cos'era, 83-84, vestirmi come Adamant da pirata, e c'era la moda, il New Romantic. Naturalmente mia mamma me lo impediva, non puoi andare in giro a Milano vestito da pirata. Questo video era meraviglioso, era lui vestito da pirata che faceva il bandito. Vabbè, i tempi sono cambiati e oggi le cose sono cambiate tantissimo. C'era una legge quasi vestitiva fino a pochi anni fa che oggi non c'è più. Oggi veramente si può fare quello che si vuole, ci si può vestire in qualunque modo, si può indossare quasi un abbigliamento casuale, quello che trovi metti addosso, nessuno ti guarderà male, cioè poi ti guardano male lo stesso. Io per esempio guardo malissimo certe persone che indossano una particolare calzatura, questa. Everybody was kung fu fighting. Se verso il 1975, 76, 77 aveste soltanto pensato di uscire di casa con l'infradito, sareste stati presi di mira e considerati dei barboni. Le infradito erano le calzature dei film di Kung Fu, ecco perché ho messo questo pezzo. Cioè, le poteva portare solo Bruce Lee, ma voi no. Tant'è vero che venivano chiamate anche Cin Cin, perché appunto erano di origine cinese. Adesso pare che andare in giro con l'infradito già a marzo, al primo raggio di sole, sia il massimo della, chiamiamola fighetteria? Va bene, chiamiamola fighetteria. Non lo sarà dell'igiene, comunque è il massimo della fighetteria. Come anche mettersi in bermuda al primo raggio di sole, perché avete fatto un investimento per tatuarvi il polpaccio col tatuaggio tribale, voglio dire, bisogna esporlo, mica lo nascondi. 800 24 00 24 per sapere se anche voi avete un tatuaggio tribale, così posso chiudervi il telefono in faccia e non sentirvi mai più. Però adesso basta essere cattivi, voglio regalarvi un momento di alta moda. Per la prima volta nella storia delle comunicazioni italiane assisterete a una sfilata di moda in radio. Abbigliamento di Filini. Gonnellino, pantalone bianco di una sua zia ricca, maglietta Lacoste pure bianca, scarpa da passeggio di cuoio grasso, calza scozzese e giarrettiere. Fantozzi. maglietta della G, mutanda ascellare aperta sul davanti e chiusa pietosamente con uno spillo da badia, grosso racchettone 1912, elegante visiera verde con la scritta Casino Municipale di Saint-Vincent. Abbigliamento di Filippo. Berrettone Sherlock Holmes con penna alla Robin Hood, poncio argentino di una sua zia ricca, scarpe da tennis con sopra galosh, carte topografiche e trombone da brigante calabrese. Fantozzi. Berretto bianco alla marinara di sua figlia Mariangela, giacca penosamente normale stretta in vita da gigantesca cartucciera da mitragliatrice, residuato dalla seconda guerra mondiale, fionda elastica, siero antivipera a tracolla, gabbietta con canarino da richiamo e gatto randagio da riporto, subito fuggito durante le operazioni di partenza. Mi è piaciuta questa sfilata di moda con Fantozzi e Filini? È sempre divertente, soprattutto perché danno l'esempio di come si esageri certe volte. Non si sa come vestirsi in particolari occasioni, la regola vorrebbe vestitevi in maniera più semplice possibile, invece no, loro esagerano, poi non avendo neanche le informazioni necessarie a vestirsi in qualche modo, da cacciatore o da tennista, i risultati sono questi. Ecco, prima di passare al... passiamo subito all'ascoltatore Ivan da Milano. Pronto, Ivan? Sì, ciao Tommaso. Ciao. Stiamo rientrando dalla Puglia, ci siamo fatti una scorpacciata di pantaloncini a tre quarti e infradito. E vabbè, ma in Puglia lo capisco, se siete stati al mare è comprensibile, e quando li vedi in Piazza Duomo oppure in qualche ufficio. Il problema è che abbiamo finito di vederli la settimana prima in Piazza Duomo, è quello. Ah, sono gli stessi praticamente. Sono gli stessi che portano poi con quel faro un po' strano l'infradito strusciandole poi sui pavè, quella è la cosa che a me dà fastidio. Sì, ma cosa vuoi farci? L'importante è non stringere la mano a queste persone che saranno dei ricettacoli di germi, io penso, che poi li raccolgono, fanno un bene comunque perché aiutano le varie imprese di pulizia stradale, l'impresa municipale della nettezza urbana. Tu comunque non hai l'infradito in questo momento, non stai guidando con l'infradito? No, non uso proprio l'infradito, non rientra nel mio guardaroba l'infradito. Neanche i sandali francescani, spero. Ecco. No, ho smesso di metterli in Liguria a 5 anni, quando me li metteva mia madre, poi li ho stati via e non li ho più rimessi. Perché le mamme sperano sempre che noi si diventi frati, si prendano i voti, allora ti mettono questi sandaletti. Grazie a Ivan, intanto buon ritorno, sento che sei in macchina, che mi ha detto che tornava dalla Puglia. Grazie. Ecco, lui dice che odiava appunto Pinocchietti tre quarti infradito. C'è un'altra cosa, anzi un'altra categoria di persone che io detesto. Sono quelli che vogliono dirti come devi vestirti, che ti guardano dicendo: ma come ti vesti? È pieno, la televisione digitale, i canali digitali sono pieni di questi personaggi che ti danno indicazioni su come vestirti. Loro poi vanno in TV vestiti come Ronald McDonald, non so se avete presente il pagliaccio che c'è davanti ai fast food, identici, con gli stessi abbigliamenti, gli stessi vestiti. Anche noi comunque abbiamo dei consigli da darvi, dei consigli seri, dei consigli meno seri. Cominciamo da quelli meno seri. Spalle importanti, seno pronunciato, fianco largo, punto vita piccolo sono le caratteristiche della donna clessidra. Si tratta di una fisicità molto sexy, per cui bisogna prestare attenzione a non scoprirsi troppo. I bikini composti da balconcino e culotte enfatizzano la figura e mettono in risalto il vitino da vespa. La scelta del costume da bagno non è affatto una scelta semplice e indolore. Infatti a inizio stagione noi donne veniamo un po' travolte dall'entusiasmo dei nuovi colori e delle nuove tendenze. Spesso non ci rendiamo conto, però, di cosa effettivamente può valorizzarci e renderci più belle. Seno pronunciato, pancia abbondante, sedere tendente al piatto sono le caratteristiche della donna cerchio. L'obiettivo è distogliere lo sguardo dal punto vita, esaltare il décolleté e valorizzare al massimo le gambe. Un costume intero sagomato con le nervature e il rinforzo sulla pancia riesce meglio a contenere il punto critico di questa tipologia di donna. Il costume dovrà avere sul retro una scollatura. Avete sentito donne cerchio, donne triangolo? Questa è una cosina che gira su internet, l'ho trovata lì. ed era piena di insulti, perché per illustrare la donna cerchio hanno messo una modella anoressica. Quindi le vere donne cerchio, quelle che praticamente sembrano delle botti, hanno detto: scusi, ma perché non ha messo una come noi, così almeno possiamo identificarci e sapere come vestirsi. 800 24 00 24, siete donne cerchio, donne triangolo, donne pera, donne anguria? Che tipo di donne siete e cosa indossate quando andate in spiaggia? Vabbè, c'è un tipo di donna che è una nostra amica, che si chiama Vladimir Luxuria, che è ci può dare qualche altro consiglio sull'abbigliamento. I tempi sono cambiati proprio da un punto di vista di costume. Intanto di costume, topless, per carità, cioè non era neanche pensabile il topless. Già il due pezzi era considerato già più trasgressivo rispetto comunque al bel costume intero. A volte sembravano quasi delle tute da sommozzatori questi costumi. Poi per esempio mi ricordo che una volta passò un uomo con il tatuaggio e mia mamma ci disse: tenetevi alla larga da quello, perché deve essere uno che è andato in galera, no? Provo a immaginare se ci fosse stato un corona in quel momento, che fosse, avrebbero pensato che era qualcuno fuggito da un ergastolo. È vero, anche a me dicevano che i tatuaggi li facevano solo gli ex galeotti, i pirati, non so, i pirati non li ho mai incontrati, neanche ex galeotti, però di persone tatuate se ne trovano tantissimo. Prima o poi mi sa che anche Vladimir si farà un tatuaggio, nonostante dica queste cose adesso. La parte finale dell'intervista che ho dovuto tagliare era molto divertente, ma insomma così, minacciava querele, per cui via, purtroppo, l'abbiamo tagliata la cartolina. La cosa che fa spingere le persone ad abbigliarsi in un certo modo è l'idea di essere diversi dagli altri. Vabbè, ci siamo cascati tutti e da sempre, diciamo che dai tempi dei Nazareni, nell'Ottocento, i pittori Nazareni, che uno pensa che facendosi crescere i capelli di essere diverso dagli altri, soprattutto dai genitori, dalle generazioni venute prima. Quello che non riescono a capire le generazioni venute dopo è che tutto è già stato fatto. Inutile andare in giro a dire: guardate come siamo strani col ciuffo, perché tanto 30 anni fa, 40 anni fa cantavano: chi vi credete che noi siamo per i capelli che portiamo? Girano in giro da un po' di anni, ma ultimamente se ne parla un po' di più, alcuni ragazzotti col ciuffo, le scarpe a scacchi, le cinture a scacchi, la faccia persa e sono loro, sono gli emo. Dire la verità, quale altro programma vi fa sentire questi pezzi? L'inno degli emo, questo si chiama inno degli emo. Gli emo, vabbè, van bene, ci sono stati i paninari, c'è stato di tutto, ma gli emo hanno un problema ed è la facilità della rima, e d'altronde bisogna anche subire queste cose. Giovanni da Milano, pronto? Sì, pronto, Tommaso, salve. Ciao, sei un emo? Sei un emo? Non lo so. Come no? Scusa, se non sei un emo dovresti saperlo, no? Sì. No, volevo portare la mia esperienza nel viaggio di nozze. Sì. 38 anni fa a Roma. Sì. E ero partito con le scarpe nuove, perché sei matrimonio, scarpe nuove. Certo. Il giorno dopo, unghie incarnita, a girare per i negozi di Roma a cercare un paio di sandali. I famosi zoccoli del pescatore caprese che a Calboni donavano tanto, no, dice Fantozzi. Ho trovato un paio di sandali tutti aperti, bianchi, e ho fatto il viaggio di nozze con quei sandali. Beh, insomma, tutti i patacavi che mi correvano dietro, perché giravo per Roma con la macchina fotografica. E i sandali hanno detto: questo è tedesco. Questo è tedesco, americano, così. Ma avevi anche i calzini, perché il sandalo col calzino è tipicamente tedesco. Ma adesso non mi ricordo più, ma può darsi. Ma come non ti ricordi? Calzini. Sono esperienze che segnano, Giovanni, se no, come fai a non ricordarti? Me la ricordo a grosse linee, però sai... Sì. Può darsi che avessi anche i calzini, diciamo così. Senti, ma ecco, toglimi una curiosità: quando uno va a fare il viaggio di nozze, perché sì. Ecco, quanto bagaglio si porta dietro? Beh, una valigia, a quel punto due valigie, ecco, una valigia e mezza, ecco. E la mezza di chi era tua, praticamente? La mezza, diciamo, è di servizio. Ah, ma adesso d'estate di servizio, no scusa, cosa ci metti dentro nella mezza valigia di servizio? Le famose scarpe, gli accessori. Ah, no, non so, magari pensavo chissà quale. No, la donna di servizio. Appunto, sai, uno abituato a viaggiare con la servitù. Ma adesso d'estate indossi i sandali francescani? No, mai è passato il tempo di Sandri Francescani. Sono rimasti per parecchi anni vuoti nell'armadio, abbandonati, poi alla fine qualcuno ha avuto la buona idea di buttarli. Di buttarli via. Senti, ma come definiresti il tuo abbigliamento? Quindi non sei emo, l'abbiamo capito, anche per motivi di età non sei emo. Sì, no. Ecco. Come ti definiresti? Abbastanza normale, diciamo. No, aspetta, la normalità non esiste. Non tutti esiste. Pensiamo di essere normali, però poi. Diciamo che mi ha dato alle situazioni. Cioè? Diciamo, se per esempio ho fatto una settimana fa in un agriturismo e ho vestito. Da contadino. Da agriturismo, se dopo devo andare. Col cappello di paglia, com'è che ti si veste? Il cappellino, quelli sportivi, tipo anche sponsorizzati, no? Senza prendere nessun soldo a nessuno. Ah, ho capito. E allora. Così. Vabbè, allora senti, ti faccio sentire un pezzo musicale che in realtà non è un pezzo musicale, ma è un vero e proprio insegnamento di filosofia vestitiva. È tutto per te. Lo jeans e la maglietta, la faccia quel sapone, m'ha fatto innamorare questa semplicità. Ma tu non me l'hai detto, dici che sei guaglione. È questo il massimo della semplicità, il jeans e la maglietta, così come la canta Nino D'Angelo. Carmen, pronto? Pronto? Carmen. Pronto? Sì, pronto. Ciao. Ma tu, ciao, indossi un jeans e una maglietta e canti le canzoni di Nino D'Angelo? Ma no, di Nino D'Angelo mi rifiuto di cantare le canzoni, mi dispiace. No, ma guarda, canto le canzoni altre che trasmetti ogni tanto, ti sento quasi tutti i pomeriggi. Ah, tu sei una di quelle che quando io mando le canzoni balla, come fanno qua i registi, i tecnici? No, io sono del genere, visto che sento musica da 30 anni, di quando sento una canzone tiro a indovinare qual è. Ah, e quindi quella che abbiamo appena sentito cos'era? Vediamo se lo sai. Non lo so, perché ho abbassato la radio, perché mi hanno chiamato nel frattempo. Brava, bisogna sempre abbassare la radio. Ma non l'ho sentita. Senti, veniamo invece al tema della giornata, l'abbigliamento estivo. Tu come ti vesti d'estate? La mia regola è perlomeno la stessa. Dunque, io faccio parte della categoria delle alte, magre, capelli rossicci, caschetto. Sì, questo sembra un annuncio, sembra che tu stia cercando un partner. Che lo già ho un marito. Ah beh, ma è un altro, ma perché per limitarsi a uno, dai, su. Comunque... No, sono monogama. Allora, senti, la mia regola è, puoi indossare cose abbastanza a poco prezzo. Ah, economia. Rigorosamente il... No, adesso ti spiego perché. Io preferisco rigorosamente il nero, perché quando metto altri colori sembra una bandiera. Comunque può essere jeans neri, gonna nera, maglietta nera, una polo nera, qualsiasi cosa. Ma... No, scusa, ma... se sei di capelli... Hai detto che hai i capelli rossi. Sì. E quindi devi evitare il verde se vuoi evitare l'effetto bandiera. Quindi infatti non lo metto mai. Mai, non esiste. Solo nero. No, e poi d'estate io mi riempio di lentiggini, quindi è un problema. Non è un problema, ma mi riempio di lentiggini. Solo nero, però? Anche se indossi un abito da 10 euro nero, non fa niente, le scarpe devono essere impeccabili. E qui, cosa vuol dire impeccabili? Impeccabile vuol dire di marca. Su quello si può concedere qualcosa di bello. L'importante è che non abbiano i tacchi, perché tutte le donne che vedo camminare con i tacchi sembrano ballonzolare. Ballonzolare. Sì, naturalmente niente flip-flop, come si chiamano, infradito, anche perché io ho la pelle molto, come rosso, la pelle molto delicata, quindi niente infradito, niente zoccoli, anche un paio di qualsiasi superga va benissimo. Ecco, avete segnato tutte le informazioni che ci sta dando Carmen da Cuneo? Bene. È la stessa mia divisa da 20 anni. Ah, la tua stessa divisa, quindi ormai ti riconosco. Un ultimo particolare. Sì, quale? Anche se sono alta e magra, il costume, forse perché nuoto bene, il costume da bagno rigorosamente intero. Cioè, praticamente quello là fino al ginocchio, proprio, tipo... È qualcosa del genere, no? Prima del Novecento. Ah, quelli olimpionici. Perché se sei alta e magra ti snelliscono comunque. Ma che bisogno hai di snellirti se sei già alta e magra? Se sei già alta e magra non devi snellirti, anzi. Non mi piace essere semminuda, cioè io amo nuotare, quindi se metto il costume due pezzi il regista non fa quello che vuole quando nuoto bene. Va bene, ci sono i bambini, non possiamo andare avanti in questi dettagli, poi il reggiseno appunto, tatanda, questa cosa. Grazie Carmen, grazie dei consigli. D'accordo. Ciao. Bene, quindi non seguite i consigli di Carmen, perché ognuno deve fare di testa propria. Seguite piuttosto i consigli di Milva. Quattro vestiti, quattro colori, quattro stagioni, un solo lei Milva, Milva ha questa caratteristica che anche quando canta, non so, appunto, quattro vestiti o dà la ricetta del pollo alla diavola, sembra che stia facendo il melodramma, la tragedia greca, ti fa un po' paura. Rita, pronto? Pronto? Rita? Mi anche sento tu? Poco, lei mi sente? Benissimo, come se fossi qua. Volevo raccontare la mia piccola storia. Tanti anni fa, circa 40 anni fa, sì? Sono andata a Parigi con un gruppo di amici. Sì? Ho detto, andavano di moda quei sandali del dottor Shaw, tutti i zoccoli, quelli bassi bassi, no? Certo. Io avevo proprio questi zoccoli, così sto comoda. Però non avevo calcolato che in mezzo hanno come un rialzo, no? Tipo plantare. Sì? Il primo giorno sono uscita, ho camminato tranquilla, poi in traghetto sono tornata in albergo con i piedi a pezzi e sono stata tutti i tre giorni in albergo, non ho potuto vedere nulla di Parigi. Potevi prendere un taxi a questo punto, scusa, ma anche tu, no scusa, potevi prendere il taxi? Sì, ma allora io ti parlo di 40 anni fa. E c'erano i taxi anche 40 anni fa, soldi, scusa. Poi c'erano 3-4 persone sempre a piedi per vedere la città praticamente. Ecco, vedi. E quindi avevo i piedi veramente distrutti. Mo. E quindi non ho potuto vedere nulla. Non so. Insomma, molto, una molto. Cosa abbastanza sconvolgente, perché non avevo calcolato assolutamente che questi zoccoli hanno quel rialzo in mezzo che è veramente terribile. Sì, però senti Rita, se una va a Parigi vuole anche fare un po' una certa figura, non vai con gli zoccoli, ti metti un paio di scarpe eleganti, dai, devi fare un po'. No, adesso trovo delle scarpe particolari, insomma, ortopediche, sempre basse basse, però sono molto comode, ho risolto la situazione, diciamo. E come costume da bagno? Ma io uso il costume intero. Tutto il costume intero? Niente, niente bikini? No, lo potrei mettere perché mi devo dimagrire tantissimo, però siccome ho una malattia della pelle che non è tanto bella, allora preferisco mettere il costume intero, diciamo. Va bene, allora oggi abbiamo veramente un momento così di sanità e simpatia. Grazie Rita! Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Quando è nata la mania per l'abbigliamento? Perché negli anni 70 si faceva un po' quello che si voleva, ci si vestiva di stracci. Beh, poi arrivò un film nel 1978 che si chiamava La febbre del sabato sera, in cui il principale cruccio del protagonista era comprarsi abiti nuovi a costo di chiedere degli anticipi. Signor Fosco, posso avere un anticipo? Lunedì è il giorno di paga. Lo so che il giorno di paga è il lunedì, ma in tutti gli altri posti è il venerdì o il sabato. E il lunedì non hanno più un soldo, si ubriacano e vanno a buttare. Passa nel weekend a buttare via i soldi. Se invece prendi i soldi il lunedì ti bastano per tutta la settimana e puoi mettere da parte qualcosa. Pensa al futuro. No, e chi se ne fotte? No, Tony, guarda che il futuro non si fa a fottere. Il futuro casomai fotte te. Quello t'aspetta sempre e se non sei preparato ti fotte. Per me il futuro è stasera, mi devo preparare. Devo comprare una camicia, una bellissima camicia. No, Tony, mi dispiace, ma non posso fare eccezioni. Io sono un uomo, tu non sai che esisto. Non somiglio niente di ciò che hai già visto. Entra i miei occhi, tu potrai vedere le mie emozioni senza barriere. Carissimi Emo, come vedete c'è stato qualcuno che è arrivato prima di voi e si preoccupava soltanto delle camiciole, come fate voi che avete solo l'unica preoccupazione della maglietta, poi vi mettete per terra in gruppo. Noto poi che molti sono anche filippini, ragazzi filippini diventano emo o cinesi, sarà il capello che aiuta. Vabbè, io ormai il problema l'ho risolto alla radice. La bella estate. Sì, sarò scemo, ma sono filologo. Io gli ABBA li ascolto soltanto in svedese, non riesco ad ascoltare in un'altra lingua, perché spesso hanno cantato anche nella loro lingua nazionale. Perché ho preso gli ABBA? Perché gli ABBA sono diventati ormai, presso un certo gruppo di ragazzotti un po' così sprovveduti, il simbolo stesso del cattivo gusto nell'abbigliamento. C'è addirittura chi pensa che gli ABBA si siano ispirati alla Carrà per i loro abiti. Bene, adesso sono il primo a svelarvi qualcosa che nessuno ha mai svelato. Perché gli ABBA si vestivano così? Dietro non c'era un motivo estetico, dietro c'era un motivo fiscale. Questo me l'ha raccontato un signore che ho conosciuto, svedese, che negli anni 70 aveva un gruppetto musicale. C'era una legge in Svezia che ti permetteva di detrarre dalle tasse i soldi che tu spendevi per gli abiti di scena soltanto a patto che gli abiti fossero effettivamente di scena. Se tu andavi in scena vestito con jeans e maglietta o camicia, non potevi detrarli, perché la legge diceva non puoi detrarre abiti che tu indosseresti per strada. Quindi non erano solo gli ABBA, ma erano tantissimi gruppi che in quel periodo nascevano, che si vestivano in maniera assurda per poter poi dimostrare che erano abiti di scena e detrarli dalle tasse. Quindi, cari ragazzotti che andate in giro adesso a cantare le canzoni degli ABBA, sappiate che non c'entra niente il trash, il kitsch, la carrà e tutte quelle cose. Ah, già che ci sono, tutti quei miei coetanei che mi insultavano e picchiavano quando ascoltavo gli ABBA negli anni 70, che adesso invece vanno a vedere Mamma Mia, beh, dovete morire, ma veramente male. Riprendiamo un tono di galateo, perché è venuta a trovarci la nostra amica Barbara Ronchi della Rocca, che ha sempre delle perle per noi, anche oggi. Quest'anno vanno di moda gli short molto corti, che in città obiettivamente sono fuori di luogo, come peraltro sono fuori di luogo i pantaloni corti maschili, anche se arrivano al ginocchio. La città dovrebbe avere, e il lavoro, a meno che uno faccia il bagnino, dovrebbe avere una grammatica vestimentaria particolare, che si è un po' persa per strada. Ecco, quindi l'errore primo dell'estate in città è quella di vestirsi come se si fosse già in vacanza, il che, scusatemi se faccio lo psicologo da salotto, è sbagliato, perché questo fa sì che quando andiamo in vacanza non abbiamo più la gioia di cambiare registro. Siamo già stati vestiti così tutta l'estate, siamo già andati in giro con quegli orrendi infradito per le strade delle città, e quindi non ci divertiamo più a metterle in spiaggia. Non è una donna, è una summa di intelligenza e di buon gusto, Barbara Ronchi della Rocca. Fra l'altro, vedete, la pensa come me, la pensa anche come quelli che hanno telefonato, quelli che mi hanno scritto anche precedentemente a proposito dell'infradito. Allora, tenete conto di una cosa: se avete 25 anni va bene, oltre 25 anni dovete dimenticare i pantaloni corti, cari signori. Soprattutto, sapete quali sono i peggiori? Quelli che usano i pantaloni neanche corti, ma alla caviglia, il che li rende ancora più buffi, sembrano l'orso Balù del Libro della Giungla. Anche se sono magri, hanno questo effetto da orso Balù. Va bene, dai, consideriamo che insomma, l'abbigliamento di oggi l'abbiamo ben scandagliato. Torniamo a parlare un po' dell'abbigliamento di qualche anno fa, in particolare quello degli anni 70. È stato un periodo di grande libertà in fondo, perché nonostante le forme fossero eccessive ci si poteva divertire moltissimo. C'è un duo di fratelli, adesso non so se al telefono ci sarà Chicco o Checco, lo scopriremo. Ah, c'è Chicco. Chicco e Checco Montefiori, Francesco e Federico Montefiori, sono stati i paladini del lounge negli anni 90. Oggi hanno anche cambiato un po' il loro genere, ma per me restano sempre i due fari che possono parlarmi di com'era il mondo e com'erano i vestiti nella fantastica Romagna degli anni 70. Ciao Chicco, ci sei? Ciao Tommaso. Dov'è l'altro, il tuo complice? Il mio complice è a casa sua. Ah, ma noi pensiamo che i Montefiori cocktail stanno sempre insieme, invece no, sono anche separati. No, infatti. Quindi è un cocktail che viene unito solo in certi momenti, entrata nello shaker. Esatto. Senti Chicco, io ti ho chiamato perché oggi stiamo parlando dell'abbigliamento da mare, o da vacanza, ma più che altro quello da mare. Ma da te voglio invece sapere qualcosa sull'abbigliamento, che so, degli anni 70. Voi avete sempre avuto questa idea degli anni 70 che avete riproposto. Voi poi siete nati sulla Riviera Romagnola, quindi chi meglio di Chicco Montefiori può dirmi qualcosa? Sì, cioè adesso, no, sì, siamo anche ovviamente amanti del vintage, così, sì, abbigliamento anni 70 romagnolo, l'uomo, io me lo ricordo anche da qualche foto, così, c'era lo slip del classico vitello, il vitello romagnolo con lo slip del pacco ben rinforzato. C'era dell'imbottitura. Ovviamente. Sì, ma quando poi arrivavi al momento topico e dovevi rinunciare allo slip e all'imbottitura, come lo spiegavi, dai? E dopo sì, c'erano varie soluzioni personalizzate. La fuga subito, immediata. No, comunque l'uomo sì, aveva lo zoccolo, i classici zoccoli di una volta, sì. Quelli semplicissimi. E poi sì, ho lo slip, ho appunto il mutandino, sì, tipo adesso li chiamano le mutande semilunghe, calzoncino. Sì. E poi mi ricordo la canottiera, sì, sì, la canottiera era d'obbligo, e poi la camicia col taschino per il pacchetto di sigarette. Sì, o anche il pacchetto di sigarette andava nel risvolto della manica. Assolutamente, sì. Poi c'erano i giovani che avevano la t-shirt, che sì, appunto, che era una novità dell'epoca, che si risvoltavano. Però l'uomo maturo, proprio il playboy professionista, aveva la camicetta appunto con col taschino. E, ma sì, un personaggio fondamentale per voi, ma anche per me, è Germano Montiferi, papà Germano. Sì. Ecco, papà Germano, quando era festa, come si vestiva? Papà Germano non andava mai in spiaggia, lui odiava la spiaggia innanzitutto. Ma come? Nato lì e odiava la spiaggia? No, lui era nato in collina, però lui la spiaggia veramente lo odiava. Lui si chiudeva in sala giochi, faceva delle gran partite di flipper. Ecco, allora quando andava in sala giochi, come si vestiva? Cioè il giorno di festa, che idea che ti è rimasta di tuo padre? O quando suonava, anche perché è stato un grande della musica? Sì, sì, no, no, lui si vestiva... ovviamente aveva dei completi, ma, cioè nell'orchestra aveva delle giacche che si faceva fare del suo sarto personale, logicamente abbastanza sfavillanti, di paillette, certo, sì, che io conservo tuttora. Infatti. Però non osi indossare, tu non le metti? No, no, ogni tanto le metto, sì, sì, sì, no, perché sono troppo belle, poi sono uniche, per cui... no, comunque sì, mio padre ha sempre avuto un certo gusto, sempre vestito da sarti, per cui... Sì, perché in realtà noi scherziamo tanto sugli anni 70, ma spesso erano più eleganti di oggi, erano molto più attenti ai dettagli, più personalizzati, non erano massificati. Assolutamente, sì. Infatti. E poi c'era il borsello, il borsello di vitello era veramente un must. L'orchestrale romagnolo si identificava anche dal borsello, dove dentro metteva ogni cosa, ma non indaghiamo. Esatto. Senti Chico, per chiudere, dove sono i Montefiori quest'estate? Adesso che Ferragosto è passato, dove siete? Suonate in giro? Sì, torniamo in Sicilia e poi su e giù per l'Italia. Siamo stati in Ucraina, sul Mar Nero, Odessa. Ah, addirittura. Sì, che ho scoperto dove nacque la canzone O Sole Mio, che fu l'alba di Odessa che ispirò l'autore di O Sole Mio. Quindi è una truffa, non è vero che la canzone non è Napoli, abbiamo svelato anche questo. Grazie allora Chico, grazie per i tuoi consigli e i tuoi ricordi. Grazie. E salutami il gemello, eh. Okay. Ciao, grazie. Ciao ciao. Questi sono loro, sono i Montefiori Cocktail, che rifanno Anonimo Veneziano, un film topico per un certo tipo di abbigliamento, abbastanza topico anche nel senso di topo proprio, ecco. Oh, c'è Silvia da Milano, mi raccomando, 800 24 00 24, ma fate i delatori, ditemi come si vestono i vostri cugini, sbeffeggiateli pubblicamente, vi do questa occasione una volta ogni tanto. Silvia, pronto? Sì, pronto, ciao. Ciao. Ciao, beh, io mi vesto normale. No, un momento, qui è vietato usare il termine normale, perché quello che per te è normale, cioè voglio, scusa, anche la cara dice io mi vesto normale, però gli altri la guardano per strada un po' così, cioè, normale cosa vuol dire? Beh, normale, a Milano ci sono qualcosa come 40 gradi, quindi l'unica cosa che ci si può vestire in maniera assolutamente fresca, con i vestiti, non so, i pantaloni di lino o qualcosa del genere, però vedo in giro veramente di tutto, il sandalo col calzino non passa mai di moda. Beh, soprattutto poi nel centro Europa, lì sono convinti che sia il massimo dell'eleganza, per cui... Sì, assolutamente. Ma non sono mica soltanto i turisti che ce l'hanno a Milano. Anche i milanesi? Eh sì, anche se però sinceramente, forse per andare in metropolitana in questo periodo mettersi anche il calzino protegge un po'. Ah già, perché tu dici, però in metropolitana hai notato, adesso ci facciamo i fatti nostri veramente, hai notato in metropolitana l'aria condizionata che è micidiale? Sì, in realtà bisognerebbe vestirsi in due modi diversi, cioè invernale per quando entro in metropolitana o negli uffici. Sì, ma non puoi girare vestita a cipolla. Mette qualcuno che gira col maglione. Senti, posso farti una domanda privata? Sì, te la faccio lo stesso. Sei fidanzata? No. Sei single? Allora la telefonata è finita, cioè devo chiederti come si veste tuo fidanzato se mi dici che sei single. In genere si vestono tutti male, cioè... Ah ecco perché li lasci, perché si vestono male, quindi li molli subito, dici no non... In realtà d'estate c'è veramente si vedono le cose peggiori, no? Uno guarda la comodità, magari noi cerchiamo di stare un po' più attenti e invece secondo me gli uomini guardano molto meno, quindi poi a loro è permesso molto di più, no? In che senso è permesso molto di più? Dai, spiegati. Beh, insomma, il pantalone con le tasche anche per me sarebbe comodo. E mettilo, nessuno te lo vieta, dai. Ma perché stare ancora lì a farsi delle autocensure? Dai, adesso Silvia, fai una cosa, vieni qua in Monterosa, usciamo insieme e andiamo a comprare dei pantaloni con le tasche per te, va bene? Va bene, ok. Ti aspetto, ciao. Ciao, ciao. Ciao. 1980, perché 1980 la hit parade oggi? Ah sì sì, perché nell'80, nell'80 ve lo dico dopo, prima la hit parade. Hit parade! Numero 10, Monkey Chop, Denai. Numero 9, Galactica, Rockets. Numero 8, L'Ape Maia, Katia Svizzero. Numero 7, Canterò per te, Pooh. Numero 6, Cobra, Donatella Rettore. Numero 5, Olympic Games, Miguel Bosé. Numero 4, Il tempo se ne va, Adriano Celentano. Numero 3, Stella stai, Umberto Tozzi. Numero 2, Luna, Gianni Togni. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', passo le notti a camminare dentro un metro, sembro uscito da un romanzo. Giallo, ma cambierò, si cambierò. Numero 1, Non so che darei, Alan Sorrenti. Sì, vabbè, grazie, dai, c'è già tanto caldo, c'è l'ondata di caldo, c'è la crisi finanziaria, se vedo anche Alan Sorrenti, significa essere veramente delle carogne. Ve l'ho già detto, no? Ho visto il film con Alan Sorrenti qualche giorno fa, Figlio delle Stelle, una coppia unica, penso, chi vuole vederla me lo chieda, poi a suo rischio e pericolo. Nel 1980, anno a cui risale questa classifica, si cominciò a parlare di tutti quegli stilisti di cui prima non si sapeva niente. Dal 1980 io ricordo che tutti cominciavano a parlare di questi personaggi come se fossero i negozianti sotto casa, e da lì in poi fu soltanto una discesa tragicissima, mai tragica quanto questa canzone che sentiremo adesso, se è l'ultima di oggi vi assicuro, una canzone di tale Tommy Riccio. Ancora una volta jeans, scarpine, non dovete odiarmi se vi faccio sentire questa musica, vi faccio sentire anche Sigur Rós, vi farò sentire Richard Strauss prossimamente, mi piace variare così, scappare da un luogo all'altro, soprattutto scappare via adesso perché di là mi guardano male perché ho fatto sentire quel pezzo, non so. Grazie a Fabio Cantadori che oggi avevo in regia e grazie ad Alessandro Balia che avevo invece in redazione. Noi torniamo lunedì e la puntata si chiamerà Peggio che in un reality, ovvero le convivenze forzate dell'estate. Aspetto i vostri messaggi sulla pagina Facebook della Bella Estate. Buon weekend, ciao!